Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Buongiorno, sono sempre io, Morena Rossi. Questa è sempre Radio 24 e siamo sempre ad agosto, tecniche di sopravvivenza. Giovedì 2 settembre. Passa il tempo, quando ci si diverte. Siamo ormai verso la fine, ma ci sono ancora un paio di argomenti che ci piacerebbe trattare insieme a voi e agli ospiti che ci raggiungeranno al telefono anche oggi. Ma dal momento che siamo tutti tornati dalle vacanze, mi ci metto anch'io, visto che ho viaggiato insieme ai vostri racconti per tutto il mese, è tempo di bilanci. Per oggi ci accontentiamo di fare bilanci di luoghi, di posti che avete visitato. Quanti mai più sono usciti dalle vostre bocche o quanti per sempre? Mai più in vacanza con gli amici che hanno figli piccoli, per sempre le vacanze in barcavela, mai più nel villaggio turistico, per sempre il bed and breakfast, mai più al mare, per sempre in montagna. Insomma, quanto siete intransigenti o lo siete stati nella vostra vita di viaggiatori? 800 24 00 24 per raccontarcelo in diretta e 349 238 6666 per i vostri sms. Il tema di oggi si potrebbe quindi riassumere quasi in mai più e per sempre. Beh, bella la vita al condizionale, eh? Si potrebbe quasi. Ma lo facciamo anche un po' per prendere in contropiede le certezze che espressioni del tipo mai più e per sempre pretendono. Buongiorno. Signor direttore, puntuale come sempre, buongiorno, come sta? Francesco? Allora, mi buongiorno, dica, com'è andato il viaggio? Buongiorno, Francesco, le valigie buongiorno, in camera, per favore. Pretore. Viaggio uno schifo, come? Treni sempre in ritardo, ho scritto anche una lettera al Corriere della Sera. Stia a sentire. Sì. Solita stanza, si solito trattamento, certo. Solita spiaggia, solito prezzo. Beh, guardi, per quello che riguarda il prezzo, solito prezzo. Prego, signor pretore. Grazie. Ci accomodi pure al suo solito tavolo. Quanto ci rassicura andare sempre nello stesso posto, nello stesso albergo, trovare sempre la stessa stanza, le stesse persone e, per non uscire dai luoghi comuni, andare nella stessa spiaggia e nello stesso mare. Canzone che non mancheremo di farvi sentire più tardi, ovviamente. Ma anche se quest'anno i costi nella stessa spiaggia e nello stesso mare non sono stati gli stessi, ma sono stati un pochino più alti. Secondo un'inchiesta dell'Associazione dei Consumatori Adoc, in alcune regioni come la Sardegna e la Toscana si sono sfiorati aumenti quasi del 25%. Ma le stesse spiagge non ci sono più nemmeno da un punto di vista paesaggistico e non solo economico. Uno degli studi più dettagliati fatto sul litorale italiano risale a 14 anni fa e quello studio certificava che solo il 28% degli 8.000 chilometri di costa rimaneva libero tra edilizia e stabilimenti balneari, e da allora la situazione è addirittura peggiorata, potete quindi immaginare. Dalla Calabria, per tutta risposta, quest'anno è arrivata una campagna provocazione per i turisti, promossa dall'associazione calabrese Straniamenti. La fotografa Adele Di Nunzio ha realizzato alcune fotografie che ritraggono i mostri edilizi presenti lungo la statale 106 nel litorale ionico e ne ha fatto delle cartoline con la scritta "Saluti dalla Ionica". Beh, cartoline che non vorremmo mai più vedere. Esistono anche i mai più raccolti in un libro, tra il tragico e il comico. È il libro di un giornalista inglese, Dan Kieran, lo stesso autore dei 100 lavori orrendi, che è uscito con 50 vacanze orrende, storie di viaggi infernali. È una raccolta, dagli anni 60 ad oggi, delle peggiori esperienze di viaggio. Sono esperienze in prima persona di viaggiatori che raccontano quello che gli è successo. Si legge dei classici imprevisti devastanti che hanno trasformato la vacanza in un incubo. Tra una crociera alle Bahamas e un viaggio da fare in Costa Azzurra, ci sono anche degli inserti molto interessanti su le 5 destinazioni più immorali al mondo, le 5 più pericolose e le 5 più dannose per l'ambiente. Beh, ve ne leggo una tra le più dannose per l'ambiente perché mi ha molto stupita. Il titolo è Golf. Esiste il GAGM, G-A-G-M, Global Anti-Golf Movement, che si occupa di combattere il golf. Non perché i giocatori siano arroganti e maleducati, cito testualmente, ma perché la creazione dei campi da golf ha effetti devastanti per l'ambiente. Secondo i dati della Defense of Nature and Environment, un campo da golf in Spagna, per esempio, consuma in 10 ore quanto 8.649 persone in un giorno. E poi, vabbè, si prosegue con dati su costruzioni di campi da golf, consumi di metri cubi di acqua, dall'Australia alle Hawaii e così via, eccetera. Insomma, a tutti i giocatori di golf, da Tiger Woods in giù. Ma lo sapevate di essere colpevoli delle vacanze che ci verrebbe voglia di bollare come mai più? Just to me, we'll follow you. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Si parla dei mai più e dei per sempre delle vacanze. Voi siete degli abitudinari? Andate da 20 anni nello stesso posto? 800 24 0024 per parlare con noi in diretta e 349 238 6666 per i vostri sms. Qual è la vostra meta preferita? Quella dove volete che anche i vostri figli crescano passando le loro vacanze? Quella della quale vi hanno fatto magari innamorare i vostri genitori? A loro volta, dove siete stati negli ultimi 20 anni? Arrivano un sacco di sms a proposito di questi mai più e per sempre. Per esempio Lucia mi dice: mai più in camper. 10 anni fa io e mio marito abbiamo rischiato il divorzio causa vacanze a 4 ruote. Beh, insomma. Oppure: mai più portare in crociera in barca a vela coppie fintamente felici, un disastro per tutti. Un altro non si firma e dice: mai più al lavoro in Sicilia in estate. Martina invece mi dice: stessa spiaggia, stesso mare. È proprio il caso di dirlo, visto che io e mia sorella siamo fedeli frequentatrici di Rimini ormai da anni, ma come potrei fare a meno della movida notturna della Romagna? Ma vogliamo sapere come la vive la questione dei mai più e dei per sempre un gestore di bagni che vede da anni le stesse famiglie. Abbiamo con noi al telefono Gabriele Pagliarani, gestore dei bagni 26 di Rimini. Ciao Gabriele. Ciao a tutti, salve. Ciao, buongiorno. Quali sono le tue tecniche di sopravvivenza per i per sempre, cioè per quelle famiglie che sono sempre da 20 anni le stesse che vengono nei tuoi bagni? È la cosa più bella del mondo, sono innamoratissimo del mio mestiere, mi piace tantissimo fare questo lavoro e se uno fa un lavoro con la passione penso che non gli pesi niente alla fine della giornata. Certo, ma hai delle famiglie appunto che vedi da 20 anni, quelle che sono cresciute con i figli che vedi da tantissimo tempo? Certo, anzi, quando li vedo dico: mamma mia, sto invecchiando, perché ho visto i bambini piccolini, io sono già 23 anni che faccio questo mestiere, ne ho 47 e vedo questi bambini che arrivavano addirittura nella carrozzina o alcuni anche nella pancia della mamma e adesso li vedo mano a mano alcuni con le fidanzate, perciò immaginate, un po' di tristezza mi viene, però ho la gioia perché dico: guarda, questo cliente l'ho visto nascere proprio nel mio bagno, è diventato grande qui. Gabriele, tu hai un posto al quale sei molto affezionato, dove vai sempre in vacanza, il tuo per sempre? Io il mio per sempre vado a Canazei tutti gli anni, vado una settimana a sciare, faccio il bagnino, mi piace anche sciare e vado sempre nello stesso posto. Si fanno amicizie, si incontrano delle persone, si diventa amici e così si passa la vacanza, diciamo. È come staccare la spina a casa tua, la riattacchi in un altro posto, però con un panorama diverso attorno a te. Eh già, senti, ma e invece un mai più? Ti è mai capitato di dire mai più? Mai più qualche volta mi è capitato, però con le persone maleducate, che purtroppo capita a fare questi mestieri, però questo qui ci si passa sopra, diciamo, si chiude un occhio e si va avanti. Ciao Gabriele, grazie. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Stessa spiaggia, stesso mare, insieme a te. 10:22. Oggi ad agosto, tecniche di sopravvivenza, si parla dei mai più e dei per sempre che si dicono alla fine di un viaggio. Cosa vi ha fatto dire per sempre quella volta? O al contrario, mai più? Un imprevisto? La compagnia? Il posto che non era più lo stesso? Quanto sono cambiati con l'età i vostri parametri di giudizio? 800 24 0024 per parlare in diretta con noi e 349 238 6666 per i vostri messaggi. E ne arrivano davvero tanti sui per sempre e i mai più. Franco dice: Paolo, mai più settimana in barca a vela con 5 donne. Cecilia invece: ho detto il mio mai più ieri, basta con i villaggi vacanze con animatori esagitati, giochi aperitivo e spettacolo serale, sto aspettando con ansia sabato per rientrare a casa, la mia tecnica di sopravvivenza, i cruciverba del Bartezzaghi. Oppure Eleonora: mai più fine settimana in montagna con camminate estreme inseguendo mio marito che sgambetta come un capriolo mentre io arranco. Quali sono i vostri mai più e per sempre delle vacanze? 800 24 0024 per prenotarvi e parlare con noi in diretta o 349 238 6666 per i vostri messaggi. L'avete pronunciato anche quest'anno almeno una volta un mai più o un per sempre? tutti i fan di Dirty Dancing, vi ricordate il lago dove Baby impara a ballare con Patrick Swayze? Ecco, sta scomparendo. Rispetto al 1987, l'anno in cui hanno girato il film, è drasticamente sceso il livello dell'acqua e l'hotel dove Baby alloggiava, il Mountain Lake Hotel in Virginia, si è visto costretto negli anni a ridurre i suoi dipendenti da 130 a 60. Non ci va più nessuno. Un mai più nostalgico in questo caso ci sta. Per rimanere in tema di mai più, se siete alla ricerca di continui stimoli perché vi annoiate facilmente, non avete nessuna intenzione di tornare nello stesso posto più di una volta, anzi volete affidarvi addirittura alla fortuna per scegliere la vostra destinazione, nascono le formule vacanza roulette. Come dice il nome, si tratta di una formula che fino all'ultimo non ci dice dove andremo, quindi è veramente una roulette. Quasi tutti gli operator ormai ce l'hanno, è una sorta di last second, ma per il solo fatto di chiamarla roulette rende tutto più emozionante, no? Forse possiamo definirla una tecnica di sopravvivenza al per sempre. Beh, già che siamo sul per sempre, vogliamo chiedere ad un romagnolo, Doc, come si sopravvive sulla riviera romagnola dove si vedono da 20 anni le stesse famiglie. E il comico Giuseppe Giacobazzi. Ciao. Ciao. Allora, sono abbastanza esperto. Lo so, immagino. Senti, ma tu hai dei mai più o dei per sempre? O li hai avuti? Sì, a voglia. Sì, no, e li vedo costantemente negli occhi della gente. Sì, ma sulle spiagge, per esempio, visto che tu... Sì, allora, il per sempre, per quanto mi riguarda, nonostante molti dicano che gli abitudinari non vanno bene, quelli sono quelli che dicono mai più voglio vedere un'immagine così sciatta, sempre vedere quegli stessi posti, le stesse facce, invece lì uno deve cercare di trovare il meglio da questa cosa, ovvero, mi spiego, visto che non ho soldi per andare da altre parti, mi tocca di andare sempre in quel posto, almeno metto a frutto questo, guardo quanto cambia in peggio il bagnino, che è sempre quello e fa sempre e quindi invecchia. Guarderò la famigliola con i bambini che arrivano col frigo, l'ombrellone, i panini fatti e quant'altro, per vedere se il marito ha sempre lo stesso istinto omicida nei confronti della moglie. Oppure se il marito è sempre lo stesso, io la guardo dalla parte della moglie. Soprattutto se il marito è sempre lo stesso, perché ogni tanto il marito va cambiato, come ecco. Tu, donna, potrai capire, abbiamo una cadenza noi, dobbiamo essere consumati preferibilmente. Diciamo che i mai più e i per sempre lì non è che si possono sprecare, siamo più possibilisti, dai. Sì, c'è più possibilità. Poi, per sempre invece è quando riesci, io lo dico da romagnolo, riesci a far sì che la vacanza in Roma, in terra di Romagna, nonostante il mare così, si trasforma in un affatto amoroso incredibile con la prima ragazza dei tuoi sogni, e quello tu pensi che sia per sempre, mentre invece no. Vabbè, ma non sarà magari per tutta la vita, ma è un per sempre che dura la vacanza, dai. È un per sempre che dura già 3 mesi, quando si va in vacanza 3 mesi è già un bel per sempre. È bella lunga, sì, effettivamente. È sempre limitato, ma è quasi sempre. Senti, ma le tue tecniche di sopravvivenza, per esempio, se vai sempre, tu sei uno che va sempre nello stesso posto? Io vado nel triangolo della morte, come ho sempre detto, che Marina Romea, Casal Borsetti e Porto Corsini, era proprio la triade, nonostante siano in linea retta, è un triangolo della morte. Abbiamo le zanzare più feroci di tutta la riviera adriatica. Che verrebbe voglia di dire mai più. Debellando. Sì, verrebbe voglia di dire mai più, però l'estate senza un becco non è un'estate. Non è estate, hai ragione, forse è vero. Forse no, è vero. No, assolutamente, questo qui è un alibi che ci diamo noi. Verissimo. Ma non ci crediamo neanche più. Senti Giuseppe, ma ti rivedremo nella prossima stagione di Zelig? Se tutto va bene, sì, se sopravvivo a quest'estate che sta finendo e a quell'inverno che sta arrivando, cosa che io non sopporto, l'inverno non è la mia stagione preferita, ovviamente da bravo marinaio, dovrei tornare a gennaio a calcare il palcoscenico con l'altra banda di sciamannati di Zelig. Certo, invece a febbraio uscirà il film. A febbraio il film, di questo sono veramente orgoglioso, oltre che curioso, perché... è un film fatto con, si chiamerà Baciato della Fortuna, è girato con un cast eccezionale, perché c'è Salemme, Gasman, Dario Bandiera, Asia Argento, Nicole Grimaudo, Baz, mia moglie che è Valeria, di Katia Valeria, Elena Santarelli. Cioè, veramente c'è un cast incredibile. E com'è stata l'esperienza del film? Esaltante. Mi sono divertito un sacco. Quindi un per sempre, mettiamo così, un per sempre magari. Allora, sì, lì. Mettiamo un'altra volta, non magari non ma almeno un'altra volta. Va bene, grazie mille Giuseppe, ciao. Grazie a te. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 800 24 00 24 per parlare con noi dei vostri mai più o dei per sempre delle vacanze. Le vacanze che fate da 20 anni, quelle che invece avete fatto solo una volta perché vi è scattato il mai più. E i vostri messaggi al 349 238 6666. Ce ne sono davvero di divertenti. Qualche anno fa i miei hanno comprato una casa al mare a Roseto. È diventato il nostro rifugio per vacanze davvero low cost. Furio da Pavia. Omar da Livorno. Ogni estate io e mia moglie ce ne andiamo in un posto diverso perché il mondo è troppo grande per andare sempre nello stesso posto. Oppure Brigitte. Mai più viaggio in camper. Doccia streminzita. Acqua della pasta che non bolle mai. Water subito intasati, un incubo. Oppure Angela, dopo 3 anni di trekking in Val di Fassa con il mio ragazzo, posso dirlo, questo è il mio per sempre. Non posso più fare a meno di questi paesaggi. E qual è il luogo che vi rimarrà per sempre nel cuore a voi, che sarà per sempre caro? Per Leopardi era l'Ermo Colle, il luogo magico dove immaginare l'infinito, il suo per sempre. Qual è la vostra siepe? Dove siete stati negli ultimi 20 anni ad immaginare i vostri infiniti, i vostri per sempre? E abbiamo al telefono con noi Nadir da Vicenza, che abbiamo sentito il 15 di agosto, per chi si ricorderà, per la puntata sul Ferragosto, scusate, il 13 di agosto, stava partendo da Vicenza per Valencia, in autostop. E vogliamo sentire se c'è un mai più o un per sempre per una vacanza così. Ciao Nadir! Ciao, buongiorno! Ciao. Come va? Bene, tu innanzitutto sei tornato? Sono tornato sano e salvo e molto divertito delle vacanze. E come sono andate? È un mai più o un per sempre? È un per sempre. Benissimo. Perché tu non eri nuovo, ovviamente, all'autostop, ci dicevi, sì. No? Uh-huh. Però ho avuto molta fortuna questa volta. Sono arrivato a Vicenza e ho trovato una simpaticissima coppia, che saluto, che mi ha portato fino a Barcellona. Addirittura, caspita, sì. Hai fatto un viaggio. Sono arrivato quasi con 2 giorni d'anticipo rispetto a quello che pensavo. Fantastico. E che cosa ti porti a casa da questa esperienza? Beh, mi porto nuove amicizie e ho scoperto che si può viaggiare con una spesa bassissima, perché 2 settimane in Spagna sono riuscito a spendere solo 400 e qualcosa euro. Ma un miracolo, bravissimo. Sì, veramente. E quindi ho scoperto che si possono fare tranquillamente delle ferie low cost in qualsiasi posto si voglia arrivare. E sei tornato sempre in autostop? No, sono tornato con dei miei amici che sapevo erano già in Spagna. Sei stato bravissimo comunque, mi piace questa idea di vacanza, ne farai delle altre in autostop, hai in previsione? L'anno prossimo speriamo di andare più distante ancora, vorrei riuscire ad arrivare fuori dall'Europa. Ah, addirittura, ma sempre, sì. Sempre in autostop, non è un azzardo, no? No. Beh, grazie Nadir, grazie fino mille. È sempre andata bene, quindi ci speriamo. Speriamo quindi che sia un altro per sempre anche il prossimo viaggio, grazie mille. Certo. Grazie mille. Ciao, ciao. Allora, volevo leggervi degli sms, ma adesso li ho persi e quindi vediamo, la scheda storica, sono un po' stanca su questi mai più e per sempre. Anche la storia ha i suoi mai più e per sempre, vediamoli insieme. 2 settembre 1752. Il Regno Unito adotta il calendario gregoriano, quasi 2 secoli dopo la maggior parte dell'Europa occidentale. Mai più isolani e isolati, almeno per quanto riguarda i giorni dell'anno. 2 settembre 1789. Viene fondato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, per sempre patria del capitalismo. 2 settembre 1969. E a proposito di soldi, il primo bancomat degli Stati Uniti viene installato a Rockville Center a New York. Mai più senza contanti. Money. You can check into my wallet, but it feels so strange. Money and cash. nonostante la musica, siete su Radio 24, ve lo confermo. Io sono sempre Morena Rossi e questa è sempre Agosto, tecniche di sopravvivenza. La trasmissione che sta per volgere al suo mai più. Oggi si parla di mai più e di per sempre. Alcuni mai più sono anche legati ai soldi, come ci ha pompato nelle orecchie la canzone di poco fa, Money and Cash. Altri invece sono legati all'imprevisto, al disastro che ci è capitato o alla formula che abbiamo scelto. Messaggi, per esempio, Antonio da Torino mi dice: mai più in vacanza tour, spostamenti continui, aeroporti, alberghi. Oppure Daniele: mai più niente ferie come quest'anno. A volte basta poco per dire un mai più, a volte basta anche solo il circolo sbagliato per non mettere mai più piede in quel posto. Lo sa cos'è questo circolo? Lo sa cos'è? Lo vuol sapere? Ebbene glielo dico, è un letamaio. Sì, è un letamaio, insisto. E non glielo ho detto prima perché sono un signore e signore si nasce e io lo nacqui modestamente, caro signore. Non solo non ci metterò piede io, ma non permetterò nemmeno al mio cameriere di mettere piede in questo ambiente lurido e fetente. Vi è mai capitato di non voler tornare a causa di un bar, di un albergo, di un locale o del personale di un locale? 800 24 0024 per le telefonate e 349 238 6666 per gli SMS. Ogni luogo ha la sua magia, vuoi la comodità dell'hotel o l'adattarsi alla stamberga. L'importante è usare i nostri sensi, vedere, ascoltare, annusare. Non si è firmato, peccato perché è un messaggio molto poetico e molto bello. Mai più dopo 5 anni in appartamento al mare. Torno sempre più stanco dalla partenza tra cucinare, pulire, solo hotel. Questo invece, dopo vacanze in albergo, alloggio, tenda, da 5 anni abbiamo acquistato un piccolo camper. Non andiamo mai lontano e poi i bimbi sono molto felici. Abbiamo detto camper per sempre, è bellissimo. Pino and Family. Ma in attesa di sentire anche i vostri per sempre in diretta, lo chiediamo all'onorevole Daniela Santanchè. Cosa ne pensa dei mai più e dei per sempre? Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno. Allora, lei ci racconti quali sono i suoi per sempre o i suoi mai più in fatto di viaggi? Ma io preferisco parlare di per sempre, visto che viviamo un mondo che è sempre più precario. Mi piace immaginare che almeno ci sia un luogo di vacanza che ci vincoli per un periodo molto lungo. Per me è rappresentato da Cortina d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti, perché mi viene in mente quel film E.T. Casa. Quando arrivo a Cortina mi si apre il cuore, tra la bellezza del luogo, tra la comunità che incontro di vacanza, mi fa proprio venire in mente quel film ed è un luogo che non riesco ad abbandonare perché trovo il connubio tra il divertimento e lo sport, perché per me la vacanza è legata allo sport, se no non è vacanza. Certo, quindi lei non ha bisogno di tecniche di sopravvivenza per i per sempre? Ho bisogno di tecniche di sopravvivenza che sono un po' l'isolamento per una persona come me che sta sempre in mezzo alla gente, che gratta la gente, tutto quanto, però ho bisogno di quelle tecniche di sopravvivenza che in qualche momento è un isolamento con gli affetti, con le persone alle quali voglio bene, è un intimo, è un bisogno di riscoprire un'intimità anche della vacanza. Non le è mai poche ore al giorno. Certo, non le è mai successo di dire mai più, vero? Di dire mai più. Mai più in quel posto, no. Mai più con quelle persone, che ne so, mai più in vacanza fatta in quel modo. No, il mai più, no, non ce l'ho un posto che direi mai più. Magari un arrivederci, magari una pausa. Io sono sempre andata in Sardegna, adesso un paio d'anni che non ci vado, ma non è un mai più, è un arrivederci, è una voglia anche di cambiare. Poi sa, la vacanza è anche legata agli affetti, a un periodo della propria vita, quindi magari ci sono dei cambi e si cambia luogo di vacanza o si sospende una certa vacanza per poi magari riprenderla. Grazie mille onorevole. Grazie a lei. Grazie, buona continuazione. Grazie, arrivederci. E adesso sentiamo anche Giorgio da Alessandria, quali sono i suoi mai più e i suoi per sempre. Ciao Giorgio. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione che è molto bella, ma non le faccio perdere tempo con i miei complimenti. Grazie mille, ma sono sempre bellissimi, grazie. Niente, io volevo dire che l'argomento di oggi, mai più e per sempre, danno un riferimento illimitato nel bene e nel male. Già, mentre vero. Poi si scontrano con la caducità delle cose umane. Per esempio, io ho quel caso mio è che io ho una barca a vela di 12 metri e mezzo. Fantastico. Mi verrebbe da dire fantastico. Sì, lo dico anch'io, ecco. Guardi, lo dico anch'io con le lacrime agli occhi, capirà poi il perché. perché per me era il mio per sempre. Facevamo io e mia moglie delle vacanze meravigliose, abbiamo girato, visto i posti, baie stupende, tramonti favolosi, tutto quello che si vuole, che si immagina per un per sempre in barca vela. Tutta la vita in barca vela, io sono d'accordo. Tutta la vita, sì. Tutte le vacanze meravigliose. Sì. Quest'inverno mia moglie mi ha detto mai più. No. La barca in vendita. No. Ma quello che è il per sempre o mai più è tutto opinabile. Ma perché un mai più così? Perché così assolutista? Cosa è successo? Perché ha detto soffro il caldo, non sono stufa di vedere dei tramonti, eccetera, eccetera. Cioè, è cambiata la regola del gioco, non la può tenere solo per i suoi di viaggi, no? Come? Non può tenere la barca solo per dei viaggi che fa lei, che ne so, da solo, no? Si perde lo spirito, è una barca che era fatta, va condivisa, presa per delle vacanze così, in famiglia, con amici e cose del genere. Adesso non lo è più, insomma, ecco, per cui diciamo che è finito un ciclo di vita, ecco, per cui la mia osservazione era che a questo mondo di per sempre o mai più forse non c'è niente. Esatto, mai essere così assolutisti, dipende anche dalla stagione della vita, come diceva l'onorevole prima, no? Dipende da come ci si evolve alla fine, ci sono dei mai più. Che poi possono diventare dei per sempre. Grazie mille. La barca ha anche un nome particolare, nel senso che evoca un senso di libertà, perché si chiama Iris de Suse, e secondo una vecchia leggenda, è un romanzo anche francese, da cui ha preso il nome, l'Iris de Suse era il nome di un lapislazzulo, di un grande lapislazzulo che era sulla porta di Babilonia, e questo quando la porta si apriva, le due ante della porta si apriva, sembravano il battito delle ali di una farfalla, e ma che bello. E questo Iris de Suse era il perno che permetteva queste ali di volare, questa farfalla di muovere le ali, quindi volare libera. Quindi è tutto un insieme di... Mi sembra fantastico, mi dispiace, la barca è in vendita, ma vabbè, un sacco di bei ricordi, dai, mettiamola così, Giorgio. Ah, meravigliosi, quelli sono per sempre. Esatto, per sempre. Grazie mille. Grazie a voi della trasmissione, veramente molto bella. Grazie. E adesso sentiamo Franco da Monza. Ciao Franco, qual è il tuo mai più e il tuo per sempre? Il mio mai più è un purtroppo. Sì, perché nell'84 sono stato selezionato come rappresentante dell'Italia per andare a restaurare la Statua della Libertà in occasione del suo centenario. Quindi mi sono trovato un mese a New York con ragazzi da tutto il mondo e abbiamo appunto restaurato la Statua della Libertà, quindi saliti sulle impalcature, è stata un'esperienza fenomenale. Ma che meraviglia, Franco, bellissimo! E appunto il mai più è perché penso non mi possa mai più capitare un'esperienza simile. Io già allora facevo fotografie tridimensionali, ho scattato delle foto 3D dall'impalcatura verso la statua, che adesso sono uniche al mondo. Caspita, e questo è un per sempre, però, bravissimo, sei riuscita, sì. È vero. Grazie mille, Franco. Grazie a voi. Ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:46, oggi si parla di mai più e di per sempre delle vostre vacanze. 349-238-6666 per i vostri sms e 800-24-0024 per parlare con noi. Cosa avete fatto negli ultimi 20 anni durante l'estate? Dove siete stati? Sempre nello stesso posto? Vi siete sbizzarriti? Avete sperimentato? Vi siete magari impigriti invece sotto lo stesso ombrellone con la stessa vista mare? C'è un messaggio che è veramente divertente di Paolo e dice: mai più in viaggio di nozze. E poi dice: scherzo, ovviamente, Silvia, ti amo. Oppure Fabrizio: mai più parchi di divertimento in agosto, file interminabili alle attrazioni. Dario: per sempre a San Candido, in Alta Pusteria, al Post Hotel, dove le tensioni di un anno svaniscono tra coccole e sport. Oppure Fabrizio da Verona: mai più in vacanza con mia suocera e mio marito, passate 25 anni fa a far da paciere fra loro due e non le ho più fatte. E adesso abbiamo Camel. Ciao Camel. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Quali sono i tuoi mai più e i tuoi per sempre? Allora, viene più, mai più, vacanze organizzate, perché, certo sono un po' emozionato, e mai più vacanze organizzate perché sono, le trovo noiose, non mi garbano, perché devi sempre entrare in certi orari, devi sempre andare... Ma organizzate intendi da altri, organizzate quindi sì, i villaggi, io, ho capito. Io invece per sempre direi sempre vacanze in motocicletta, come ho fatto tante volte che parto, vado, sono stato anche all'estero, in Austria, in Slovenia, ho girato anche molte parti dell'Italia e ho sempre avuto molte emozioni in più in confronto alle vacanze organizzate, perché mi sento più libero, magari tante volte non sono nemmeno arrivato a destinazione, perché cioè, quando siamo andati a Salisburgo si doveva andare a Praga in realtà, però hai cambiato giustamente, perché poi con la motocicletta o insomma facendo le vacanze per conto tuo puoi decidere di fermarti dove capita, dove ti piace di più, questo è vero. Sì è giusto, poi cioè, nel senso ti capita magari di vedere posti che non avevi considerato prima di partire. A me, per dirti, mi è capitato di vedere un ghiacciaio favoloso, si è trovato per caso, ecco. Cioè, mi ha lasciato una bella emozione, dei bei ricordi, c'erano le marmotte, c'erano tante cose da ricordarsi. Campbell, dove sei stato quest'estate? Senti, quest'estate purtroppo ho avuto un po' di problemi economici e mi è toccato stare a casa. Porco cane! E quindi hai in previsione di fare vacanze, non so, in inverno, qualche weekend in motocicletta? Certo. Ma senti, d'inverno io scio, quindi vado sulla tavola, quindi sicuramente qualche weekend in Trentino da qualche parte, se ci incastra, volentieri. Prossimo viaggio nei pensieri ci sarebbe d'arrivare di fare la Spagna. Sempre in motocicletta? Fino allo stretto di Gibilterra, sì. Ah, bello, magari bellissimo. Imbarcando a Genova, fino a Barcellona e poi arriva fino allo stretto di Gibilterra in motocicletta. Bene, speriamo allora di poterti, cioè di augurarti di poterci andare l'anno prossimo. Ti ringrazio. Ciao Came, grazie. Grazie a te, ciao. Adesso che il fumo cancella l'estate e il grigio ritorna scendendo su noi la lunga vacanza per sempre, pure qualcosa di noi resterà. Beh, come dice Tenco, anche se si chiude per sempre la nostra vacanza, qualcosa di noi resterà, qualcosa resterà sempre. E in un paese come l'Italia credo che restino soprattutto i per sempre, almeno secondo me. Abbiamo deciso di chiederlo anche ad un'esperta di viaggi, come si sopravvive ai mai più e ai per sempre che si incontrano in una vita. E la giornalista di Rai 1, Donatella Bianchi, che conduce da sempre Linea Blu. Ciao Donatella! Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono più i per sempre che mai più, devo dire. Io sono una persona molto ottimista e quindi diciamo che la bilancia comunque si sposta in favore dei per sempre, perché le nostre coste, non soltanto le nostre coste, il Mediterraneo in generale è talmente bello che effettivamente offre moltissime occasioni. Naturalmente, ma che cosa ti fa dire per sempre su un posto, per esempio? Non so, è solo qualcosa di il paesaggio, sono le persone, sono i colori, gli odori, che cos'è il per sempre per te? Il per sempre è un'alchimia fatta appunto dal luogo e dall'espressione di quel luogo che è l'identità della gente che lo vive, che lo abita, e negli occhi delle persone semplici del quotidiano, che poi sono quelle a cui io cerco di dare molto spazio, sono quelle che si raccontano a Linea Blu sostanzialmente da sempre. E io particolarmente sono legata alle isole, le isole minori, più sono piccole più mi trovo a mio agio, per cui per me è per sempre l'isola, assolutamente. E lì ognuno trova la sua dimensione, soprattutto le persone che amano il mare, naturalmente, perché è quasi inevitabile. L'isola è esattamente il modo migliore in assoluto per me per vivere il mare. Certo, ma il per sempre in questo caso ogni anno si riscopre qualcosa di nuovo se uno va sempre nello stesso posto? Questo sì, sai, vale, perché dopo 17 anni di Linea Blu posso dirti che pur tornando, ripercorrendo tutti gli 8.000 e passa chilometri di coste italiane, io ritrovo sempre qualcosa di nuovo. Tornando anche negli stessi luoghi più volte, ogni volta partendo scopro qualcosa che ho trascurato e che mi piace riprendere poi tornando. Magari vado a vedere com'è cambiata la situazione, se è migliorata o peggiorata. Ma ogni realtà può essere scoperta in una maniera e con un occhio diverso, pur tornandoci moltissime volte. Però il nostro paese, soprattutto se lo guardiamo dal mare, la nostra penisola è talmente piena di possibilità e di occasioni che anche il ritorno nello stesso luogo più volte a volte diventa forse da inutile, da evitare. Prima bisogna capire, conoscere, ci sono mari diversi completamente l'uno dall'altro e l'espressione poi di tutto questo sta appunto nella cultura, nelle tradizioni che troviamo nei vari luoghi. Naturalmente. E invece i mai più, che cosa ti fa dire mai più di un luogo? Guarda, il mai più è dato anche in questo caso dal comportamento delle persone, che lo rendono un paradiso o un inferno, a seconda del loro atteggiamento nei confronti di chi lo raggiunge, di chi lo vuole in qualche modo conoscere. E altrimenti non ci sono luoghi da evitare, perché ti ripeto, lo spirito del vero viaggiatore è quello che ti porta comunque sempre a cercare, non dico qualcosa di buono ovunque, ma ad avere un approccio sempre comunque molto positivo. Spesso e volentieri sono proprio le persone che distruggono questa magia che chiunque ami il viaggio in senso assoluto ritrova dappertutto. Direi mai più l'avventura sul mare, al di là dei territori. Il mai più per me riguarda semplicemente quella sfida con il mare che a volte è assolutamente ingiustificata, per cui io per esempio non porterò mai più le troupe a lavorare se le condimette non lo consentono e cerco di evitarlo. Certo, perché poi diventa difficile. È un rischio assolutamente inutile. Naturalmente. Senti, ti vediamo sabato sempre a Linea Blu? Mi vedrete sabato ovviamente fino alla fine di quest'anno, fino al primo sabato di dicembre che è il 4, saremo in onda ancora con Linea Blu. Questo sabato in particolare lo dedichiamo ancora alle isole Eolie, ai vulcani e all'isola che appunto dà il nome ai vulcani, Vulcano appunto, che è la prima che si incontra arrivando da Milazzo, e una finestra che abbiamo voluto riaprire ancora su queste isole che anche quest'anno insomma sono state un po' provate da vari eventi di cui ci siamo occupati un po' tutti e che però meritano una grande attenzione perché sono luoghi che hanno moltissimo da offrire. Benissimo, grazie mille Donatella, allora ci vediamo sabato alle Eolie. Grazie a voi, vi aspetto. Ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666 per i messaggi. Marilena dice: la nostalgia delle vacanze supera gli imprevisti, è sempre vita vissuta. Oppure Erika: io ho due per sempre, il primo è il viaggio alle isole Galapagos e il secondo è la vacanza in barca. Ma adesso siamo pronti per le nostre tecniche di sopravvivenza da tenere sempre a portata di mano perché certe cose non capitino mai più. Entro i 30 anni i mai più e i per sempre si possono usare senza farsi troppi scrupoli. 2. Dopo i 30 anni ci vuole un po' più di circospezione. Essere possibilisti rende spesso tutto più semplice. 3. Prima di dire per sempre, pensa che vedrai madri diventare nonne e figli diventare padri. Te compreso, sicuro di essere preparato? 4. Prima di dire un mai più, pensa davvero se quel posto vale tanta intransigenza. 5. In ogni caso, sappi che qualcuno troverà il modo di usare un giorno la tua decisione contro di te. Vi leggo ancora un paio di messaggi perché sono davvero molto divertenti. Sonia da Brescia: mai più in tenda senza averla controllata prima di partire. Un temporale l'ha trasformata in un colabrodo. Oppure, carissima, non dimenticare che tanti come noi sono in vacanza in settembre, vere vacanze, rilassanti, tranquille, meno bolgia, servizi migliori e meno care. Le consiglio chi può. Saluti a tutti, Marina e C. Ma sono d'accordo visto che anch'io partirò a settembre. Io vorrei rimanere per sempre con voi, ma anche oggi siamo arrivati alla fine. Se stasera non sapete che cosa fare, a Roma, dopo 26 anni, torna a farsi sentire la voce di Boy George, leader della band The Culture Club degli anni 80. Avremmo detto un bel mai più, vista la lunga assenza dal palcoscenico, invece rieccolo. Chissà dove è stato lui negli ultimi 20 anni. Stasera è al Gay Village a Roma. Per informazioni, www.gayvillage.it. Grazie a Vittoria Mussini e Laura Fagini in redazione e a Roberto Scaltritti in regia, che domani non sarà con noi per il gran finale e che saluto con un per sempre da oggi. Vi aspetto domani. Che hai fatto in tutti questi anni, Noodles? Sono andato a letto presto.